Nascondino. C'era una volta, in un regno lontano, un'adorabile principessa di nome Melanie. Melanie era intelligente, brillante, le piaceva giocare. Il suo gioco preferito era nascondino. Melanie aveva una torre tutta per sé. Era così alta che da essa poteva vedere tutto ciò che accadeva e quindi nessuno poteva nascondersi da lei. Il re amava molto sua figlia, ma anche se era così intelligente, pensava che si comportasse troppo come una bambina. E il peggio arrivò quando le chiese del matrimonio. Melanie, amore mio, quando sceglierai un marito per te? Padre, perché me lo chiedi? Sai che non voglio sposarmi affatto. Ma, tesoro... Padre, sai quanto sono intelligente? Riusciresti a trovare qualcuno più intelligente di me da qualche parte? Ah, so che sei intelligente, ma a volte ti comporti proprio come una bambina. Tu e i tuoi giochi. Forse dovresti sposare un uomo fatto di puzzle. Un uomo fatto di puzzles? Ah, che meraviglia! Padre, adesso dichiaro che sposerò solo un uomo bravissimo a nascondersi. Che cosa? Deciderai chi sposare con una partita a nascondino? I nobili non hanno tempo per i giochi. Non troverai mai un marito così. Lo so, questo è il punto. Successivamente, molti giovani re e principi vennero a chiedere la mano della principessa in matrimonio. Tutti pensavano che sarebbe stato facile nascondersi, ma la principessa, dalla sua torre, li trovava sempre. Presto non rimasero quasi più principi da sposare per la principessa. Melanie era molto felice, ma il re no. Melanie, non farlo! Sposa uno dei principi che sono venuti qui. Quello con i capelli rosso scuro sembrava buono. Quello che si è nascosto nella vasca dei pesci? Mai e poi mai. Preferirei sposare una rana. Non lo faresti. Respingeresti anche la rana. Nel frattempo, il principe Liam, che aveva sentito parlare della strana richiesta della principessa, era in viaggio per incontrarla. Era un giovane forte, bello e anche molto gentile. Aiutatemi! Qualcuno, per favore, mi aiuti! Oh, povera piccola farfalla! Ecco qui, sei libera! Oh, grazie, amico! Te ne sarò per sempre grata! Beh, era solo la cosa giusta da fare! Sei molto gentile! Ogni volta che sarai nei guai, vieni da me e io ti aiuterò. Bene, devo andare ora. Talù! La farfalla volò via e il principe continuò per la sua strada. Mentre cavalcava, sentì qualcuno urlare dal dolore. Oh, il mio piede! Oh, come fa male! Qualcuno, chiunque, mi aiuti, per favore! Liam guardò oltre i cespugli e vide il piedino di un coniglio bloccato sotto le radici di un albero. Oh, povero coniglio, sembra terribile. Ecco, adesso ti aiuto. Liam liberò la gamba del coniglio il più delicatamente possibile. Au, au, au! Ma... coniglio? Oh, farà male! No! Oh, hai finito? Oh, sono libero! Yuppidi-hoo! Che meraviglia! Come potrò mai sdebitarmi? Beh, abbi cura di te! Grazie mille! Sei una persona gentile! Ricorda, quando avrai bisogno di me, vieni a cercarmi e io salterò qui per aiutarti! Arrivederci! E saltò via, molto soddisfatto del comportamento di Liam. Liam sorrise e continuò per la sua strada. Mentre si avvicinava alla fine della foresta, vide un'aquila. Era stanca e molto affamata. Liam era molto dispiaciuto per questo. Gentile viaggiatore, dammi del cibo se ne hai. Le mie ali sembrano troppo pesanti per me oggi per volare. Ho solo del pane con me. Puoi anche mangiarlo tutto se ti va. Oh, grazie! L'aquila finì presto il pane e ora sembrava molto felice. Grazie per avermi dato da mangiare. C'è qualcosa che posso fare in cambio? Non mi serve nulla in questo momento. Sono solo felice di averti aiutato. Allora, quando avrai mai bisogno di qualcosa, chiamami e io ti aiuterò sicuramente. Liam annuì e riprese il viaggio verso il regno. Raggiunse presto il palazzo ed entrò per vedere la principessa Melanie. Oh, guarda, un altro pretendente. Per fortuna ce ne sono ancora. Ma quando Melanie vide Liam, rimase sbalordita. Non aveva mai visto un uomo così bello prima d'ora. Saluti, principessa Melanie e sua altezza. Io sono il principe Liam e sono qui per chiedere la mano della principessa in matrimonio. Dici davvero? Non hai sentito parlare degli altri che ci hanno provato? Ne ho sentito parlare, Altezza, ma qualcosa mi dice che farò meglio di loro. Farò del mio meglio per nascondermi da te. Melanie fu stupita dalla fiducia di Liam. Bene, cominciamo subito. Va a nasconderti, ma lascia che ti ricordi che, sebbene questo regno sia davvero vasto, io ti troverò sicuramente. Liam sorrise e se ne andò. E lui? Questo è il principe che sposerai? Ovviamente no. Lo troverò facilmente. Nel frattempo, il principe Liam andò a cercare l'aquila. Se ciò che dice la principessa è vero, è meglio che chieda aiuto. Signor Aquila? Signor Aquila, riesce a sentirmi? L'aquila lo sentì e scese in volo. Ciao! Cosa posso fare per te? Devo nascondermi dalla principessa Melanie. Mi aiuteresti? Quindi l'aquila portò Liam al suo nido e si sedette di fronte a lui per nasconderlo. La principessa Melanie salì sulla torre e si guardò intorno. Non riusciva a vedere Liam da nessuna parte. Alla fine tirò fuori un telescopio e guardò attraverso esso. Dove potrebbe essere? Non è vicino alle barche in riva al mare. Non sembra nemmeno nella foresta. Aspetta, è lui? E mentre guardava più da vicino, vide due gambe sporgere dal nido dell'aquila. Com'è riuscito a nascondersi lì? Proprio accanto all'aquila? Lei andò da lui e lo chiamò. Liam, vedo le tue gambe. Ti ho trovato. Questo vuol dire che ho perso? Beh, hai trovato un nascondiglio davvero buono e ho impiegato molto tempo a trovarti. Quindi ti darò un'altra possibilità. Liam si allontanò per cercare un altro nascondiglio. Questa volta chiamerò il signor Coniglio. Signor Coniglio, riesci a sentirmi? Ho bisogno del tuo aiuto. Eccomi qui! Hoppiti hop! Cosa desideri da me? Per favore, aiutami a nascondermi dalla principessa. Presto mi cercherà. Un altro principe destinato a fallire! Com'è divertente! Oh, lo vincerò! Aiutami e basta! Bene, bene! Scaverò una buca per te nel terreno. Devi nasconderti lì! E presto il coniglio aveva scavato una buca abbastanza profonda da permettere a Liam di nascondersi. Solo i suoi capelli si vedevano un pochino. Se metto qualche fiore, i suoi capelli sembreranno un bel cespuglio rosso. Bene, ho finito. Spero tu vinca sto gioco. Di ritorno alla torre, la principessa Melanie stava cercando il principe Liam. Ma ancora una volta cercò a lungo senza riuscire a trovarlo. Ancora? Ho guardato tutti gli alberi e non è dietro di essi. Ma dove potrebbe... Che cos'è? Che strano piccolo cespuglio rosso. Aspetta, potrebbe essere... Lasciò la torre e presto si trovò al fianco di Liam. Cespuglietto rosso, vorresti per favore uscire? Ti ho trovato ancora. Oh. Ancora una volta sei stato molto bravo. Sai cosa? Dato che anche questa volta ti sei nascosto bene, ti darò un'altra possibilità. Ma sarà l'ultima. Ancora una volta partì alla ricerca di un altro posto. Ora cosa faccio? Non so dove altro nascondermi. Oh, ciao! Sei l'uomo che mi ha aiutata. Cosa c'è che non va? Perché sei così preoccupato? Quindi Liam raccontò tutto alla piccola farfalla. Lascia che io ti aiuti. Vedi, in realtà sono la guardiana della foresta. Ti darò qualcosa di buono. Mangia questo dolce e diventerai qualunque cosa tu voglia essere. Così Liam si mise in bocca il dolce e in un attimo si trasformò in una rana. È davvero quello che volevi diventare? La principessa non ti amerà così. Beh, ho fatto un piccolo incantesimo su questo dolce. Quando la principessa dirà mi arrendo, tu tornerai alla tua forma umana. Questo è fantastico. Ora devo andare dalla principessa. Non mi riconoscerà affatto. Di ritorno alla torre, Melanie stava cercando disperatamente il principe Liam. Cercò in lungo e in largo, ma non riuscì assolutamente a trovarlo. Cosa devo fare? Non è da nessuna parte. Non è al mare, né alle foreste, né nei terreni del castello. Ho cercato dappertutto. Ho una rana. Va via, sto cercando il mio principe, non te. Liam iniziò a ridacchiare. Che divertente, lei non sa proprio che sono io. Melanie continuò a cercare e alla fine decise di uscire e cercarlo lei stessa. Guardò dietro tutti gli alberi, dentro ogni buco e persino negli stagni, ma per quanto ci provò non riusciva a trovarlo. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Forse si è trasformato in un uccello ed è volato via. Perché sei qui? Mi hai seguita ovunque. Forse dovrei sposarti. Dopotutto ho detto a mio padre che alla fine avrei sposato una rana. Mi arrendo. E in quel momento Liam tornò alla sua forma umana. Salve principessa. Tu eri la rana. Ma come hai fatto? Questo è il mio segreto. Ma ora ho vinto, giusto? Sei stato con me per tutto questo tempo e io non lo sapevo. Sì, hai vinto. E posso dire che sono felice che tu abbia vinto, perché anch'io voglio sposarti. Sono o non sono il più fortunato? Quindi il giorno successivo la principessa Melanie e il principe Liam si sposarono felici e contenti. Il re era davvero contentissimo. Oh, non potrei essere più felice in questo momento. Oh, e il coniglio, l'aquila e la farfalla furono anche loro invitati come ospiti reali al matrimonio, perché Liam aveva raccontato a Melanie come aveva fatto a vincere. Per fortuna non si era arrabbiata e aveva invitato i tre al matrimonio. Ok, penso che dovrei smettere di parlare ora e godermi il mio cibo. Ciao!